10 KK. Attenzione 10, 10, cambio. Anche lui cordialmente e poi ripasso tutta l'esio perché non so chi ci sia. Cioè, adesso ho sentito che c'era gente, solitamente io stavo accendendo sul 5 perché sapevo che eravate sempre lì. Gianluca, comunque sì, Gianluca è Bavato, non ti ho riconosciuto, giuro. scusa, no, che sto provando questo baracchinetto, non male, no? Già, però c'ha questo pilota che sta toccando o non toccando, di fatto se ne va di portante. Ma quale hai preso? Quello piccolino della, Lafayette? No, no, no, questo ce l'avevo sempre qua, era in corso lo Stryker, no? E sta facendo il pilotino, deve essere che si è allentato, ma lo fa proprio come mollato, come mollo il filo, no? E è proprio da lì da dove c'è lo spinotto, deve essere qualche falso contatto nelle saldature. Ecco bel toccai, anche il toccai mi fa così. Ma questo qua ce l'ha la cosa che stringe, capito? È tutto stringe bene lo spinotto, ovviamente c'è qualche saldatura, oppure le lamelline dello spinotto, le femmine, che sono dello spinotto del microfono, che entrano dentro il maschio che è attaccato al baracchino, che siano un po' ossidate, che siano un po' cose, lì basta prendere, come fanno uno spacco, no? Basta prendere la punta di cacciavicino piccolina, entra la trava plastica e l'esterno della lamella e spingerlo un poco per chiuderla. E come l'altro giorno ho comprato un decoder io e stavo diventando scemo perché non funzionava il telecomando e non ho visto che le batterie che c'erano sigillate nella confezione erano tutte arrugginite sotto. Cariche, tanto mettono batterie di cavolo. E avevano ossidate, dai, erano tutte, c'era ruggine e ossido. A Gibraltar ho già fatto Baruga, ho preso un paio di batterie di quelle cinesi, le ho messe a funzionare. Cazzo, io perdendo la testa, il cazzo non funziona, porca vacca, ho ben cazzato. Basta guardare le batterie. Guarda, sono cose che si acquisiscono col passare del tempo, con questa esperienza. Piano piano va e si ricorda le cose, perché magari queste le cose se le avevano lì in magazzino da quanti anni, le batterie anche se non si usano, tendono a caricarsi. E allora, ma erano anche ossidate, ma erano sigillate lì, erano con sigillo in plastica. Non c'entra niente, quelli erano barbecchia di magazzino. Infatti, probabilmente. Il coso del decoder è buono, è un Samsung. Ma infatti le batterie che mettono sono batterie di capo. E di che sigillisi sono? Per la più buona idura c'è il nome. Ok, magari. Col passare degli anni, se non sono anche che sono lì, hanno la loro cadenza. Già. Ma dura c'era una signora batteria, la durata e tutto quanto, a me non mi si sono mai ossidato che dura c'è per dire, mai. Poi sulla sala canto voi, io c'è una radio nel bagno che quando mi faccio il bagno me l'accendo e mi rilassa, no, metto a cantare e facendomi il bagno mi rilassa. Beh, questa radio lì la può comprare dai cinesi, devi sentire che suono c'ha, sembra stereo, di quelle piccoline, no, però va alla grande, sembra una radio stereo, e me l'ascolto così, le batterie, lo sai cantando in video, due o tre anni non si sono mai ossidati, sempre le duracele. Un attimo, sono per il porno, da mani. E con tutto il regalo di Barubani, va pure acqua, tutto quanto gli ci va. Quello sì. Con la luminosità diciamo non si scaricano mai, l'accendo solo quando mi faccio il bagno, non è che l'accendo sempre, capito? L'accendo, metto la radio, metto a cantare e mi faccio il bagno cantando. No, vabbè, no, io non ne metto radio, accendo quella che sto qua, la stanza. Io prima a radio ne avevo da tutte le parti, ero patito di radio, ascoltavo anche i programmi notturni con le cuffie e tutto quanto, ero proprio patito. No, vabbè, io devo ascoltare a radio, durante la notte non sapevo più niente, ma non facevo il rumore, perché sono attento a quello che vestivo, qualcuno che magari che si rompa le orecchie e mi fa la mia nana, si fa per il suo, e mi sono andato mi fa da culla. L'accendo ci vuole un po' di tempo per addormentarmi, se metti la stazione accesa, metto un programma che anche lo mi carezza, però si capisce che parlano, e mi addormento. Invece la radio è fuori musica e quando sento il canto di vedi, allora c'ho cartello, un Beh, anche a me piace per questo. Ma la televisione poi ti sdraio nel divano, come faccio io perlomeno, io mi sdraio nel divano e addio Ninetta, nel mondo di vissuto. Perfetto, come sei? Ciao. Sada. Ti lavori? Sì, io sono uscito poco fa. Sempre travagliati voglio qua. E tu vedi io ci capo l'attore. Allora, c'era il funerale, quindi c'era il funerale di coso, di Alberto Mura, e sulla gente chi via. Come devo per farlo questo lavoro, là, adesso d'inverno, e mi sono ritornato un po', sì, per fare un po' con le queste radio, mi hanno visto, è difettoso, è proprio ottimo, come sto con il mic. Ho detto oggi per la funerale di Alberto Mura, quando stavo scendendo a lavorare stavano salendolo, c'era polizia, di tutto di più, scorta davanti, scorta dietro, sta gente che vede a San Gavino, oh io. Sì, me l'hanno detto. Ma io l'ho visto. Poverino, non si sa, io boh, lo vedevo sempre chiamare, ci fermavano con la pattuglia, andavano a prenderci il caffè la mattina, tutta la pattuglia, lui era sempre in coso, sempre con la pattuglia, non stava in ufficio, stava sempre insieme a loro. Chiamare, ma dove c'avete il negozio? E allora a fianco, andavano. E la cosa, Fabio? Lì vanno tuttora anche molti vigili e cose vanno tutti lì. Vabbè, comunque lo vedevo ogni mattina, immagino. E a Fabio lì dove c'è il palò, come si chiama? L'ha pagato. Peccato, perché mi è dispiaciuto perché era molto giovane. Purtroppo c'è una cosa che non si riesce a comprendere, come si combattava questa cosa. Ma boh, a me fa... Cazzo, dopo tant'anni, cazzo, non si riesce a comprendere, cazzo. Ma a me, cazzo, bisogna marciare sopra con tutti i cazzi che si a fare le ricerche. Io sa, ma tanto mi giallo, e adesso il male del secolo è questo. Scopri quello e ne viene un altro di male, è sempre stato così. Prima chissà Ciriacchia, la Gunisci, la Sla, tutti i mali che sono sopraggiunti negli ultimi decenni, dai. Vediamo, fai girare anche adesso, però. E avanti Alice. Dimmi. Ecco, la te devo dire, ho detto avanti. No, stavo dicendo appunto che certi mali li combatti e poi ne sopraggiungono altri. Non riesci mai a debellarli del tutto i mali mortali, da. Prima poi tocca a tutti, lo sai, una cosa all'altra. Ho sotto una ruota, sotto un coso. Ma siamo venuti a andare a un lavoro, io ho già detto a Riccardo, guarda che se cavolo per cado, vedo la casa da morto, gratis e il funerario, gli ho detto. Ho detto va bene, quindi non vado neanche dietro, non vado niente di male opera, se si chiamate l'antenna, quindi non pago il funerale. Ho detto va bene, e quindi sto bene io, qual è il problema? Cosa mai? Pagato. Allora, ho visto una nuova antenna, una Ringo, sistemata praticamente, vedete, posso dire, da via l'Italia andare per via Ritegio alla fine. Tu praticamente venendo da Porto Torre sali da via Ritegio, per andare via l'Italia, giri via Ritegio e ti vedi l'antenna, ci vede proprio di fronte. Io l'ho visto anch'io, non preoccupate, non niente di preoccupate quello. Ma non ti preoccupate, dica, cos'è che ci vedi? Non mi ha fatto nulla, per detto a chi è. Non dopo c'è un'antenna nuova, addirittura oggi ce ne sono 5 di antenne nuove, CB. mai visto e mai sentito io. Vero? Davvero, sono sicuro che noi ci vediamo, sì. Figurati. E quindi no, non sto a comprovare chi è, magari è uno che si è comprato un certo canale, si è trovato in canale basso e parla con la moglie, va bene. Non è per male che te lo fanno, ce ne sto chiedendo e basta, non è che sto andando a controllare niente, io me la prostituta, ma con me. K. Gianlu! Sto succedendo per male, eccetera. Ho visto ieri 50 russi, quindi ho detto, ma ci sarà questo, eppure non. Quindi così se sono nuovi, meglio che entrano. Per dire, evidentemente qualcuno che si è attaccato a barattere in casa, parla con la moglie, si trova le canne basse e parla, perché tanto qui 27 cosa fai? Parli con uno, la fa avanti, o fanno bene, se ne vanno le canne basse, ci sono 34 canne di sotto e parlano tranquilli. Non saranno cibi vecchi quelli lì, no, che magari anche ne erano stati a 100 anni. Ah, no, no, sono nuovi, sono nuovi. Ma... E poi ho domato che non ce n'erano, non ce n'erano altri, ho creduto. Allora solo ultimamente che saranno messi. Allora Gianluca, cosa mi racconti di bello? Che sono la moto che ti sei fatto, ti sei perso in Libia. Vabbè, fate il lavoro, queste cose qua. Però c'è un attimino già che sto facendo questa cosa, questa... Stanno partendo, la tocca un tocca, anche noi. Fai, fai. Ciu, sapevo, non è esatto. No, Marco si è addormentato vicino a me, ma non sta bene, pure. Io ci siamo invece che sta male stasera. Ha problemi occhi, non vede per niente, quindi sono in attina, ma lo... la compagnia quanto so cosa la faccio controllare. Cos'è? Non vede da occhio? Sì. Ma così di colpa? Sì, da davanti ieri, la presa. Prima ti ha fatto per un'oretta e mezzo, oggi invece è tutta la sera. Controllato, le pugni tutto, di pernire, magari poi si è stato ancora a genere, poi come fare un orecchio. Se è stato un orecchio con l'acqua calda, non c'è neanche quella, quindi non so da sia, quindi ce la porto ogni mattina. No, non la devi aspettare domani mattina, vai a portare l'oculistica a farla vedere. La porto domani mattina a farla vedere, no adesso. Tanto soccorso e poi si vedrà cosa c'ha, cosa vuol dire? Vabbè, come vuoi tu. Io l'avrei fatta qua, a mia moglie l'altra volta gli sono fatti gli occhi gonfi, ma gonfi, cavo, tutti rossi, gonfi, cazzo, ci fuori dall'orbita proprio, cazzo, ma poi l'ho fatta l'oculistica. Una congiuntivite causata da lenti a contatto. Una brutta congiuntivite, ti ha detto. Qua dice c'è l'infezione, hanno dovuto mettere degli antibiotici, delle cose, perché gli stava bruciando da morire. No. Vede d'occhio in pratica, mi ha detto, quindi... Ma se vuoi attuare l'accompagno lì a quattro soccorso e vediamo un pochettino la campetta l'oculistica. Perché vedi tutta San Pietro in pratica di mano. E loro che già troppo ridicolo. Ma è doppio, ma di soffre di artrosi cervicali. Sì. E quello. E quello ci vuole una passata di consiglio. E quello. Le artrosi cervicali ti causano queste cose, nausea, capogiro, la vista doppia, tutte queste cose qua. Non ho capito. Non ci pare... Ma non ho privato, ci pare... Quindi è quello, L'altro non vede, l'altro ci vede, no? Ora sei uno che sono. Perché l'altro cervicale fa così, vedi doppio però ti deve gli occhi, non uno solo. Se chiudo io l'altro bene. È strano. È un bel strano, comunque farà vedere. Non devi startene così, no? Non metti che abbia preso freddo, ma non sai che l'altro giorno sono andato da una cliente giovane, sto dicendo avrà 30 anni, è andato a fare equitazione, la sera ha finito un po' tardi, è tornato a casa, ha messo la faccia deformata, ragazzi, è venuto a Parigi. Tranquillo, via. È andata a casa di Giovanna, l'ho trovato fuori, non dentro a casa, per il bambino, capito? Sì, quindi sono andato a pigliare un freddo. Sempre belle notizie? Sempre belle notizie, Zò. Giallo, così, belle notizie o no? Basta un attimo. Un grebbo, un grebbo. Un grebbo, un grebbo. A chi grebbo? Non credo, mi viene la mente queste cose. Oia. Aspetta che attacco quest'altra radio e vediamo un poco come va. Controlla. Vabbè, ma l'altra già la faccio domani, eh. Ecco, ne sto mettendo un'altra un attimino. A vero, se no un casino. Non credo. Un'e mezzo mi sembra, ma forse no, pure due qualche cosa. Ma casa sua o se l'avevo in macchina? No, no, casa sua, casa sua. E la casa sua ti metterà a fare, e c'è stato, quindi. La casa c'è bene a casa sua, e appunto, lasciano così com'è. Ma c'è stato, lo sa. E c'è con 10 batte con l'apparecchio, eh. Non ho fatto la tre con 10 batte di apparecchio, quello che viene delle... solo con 5. E che apparecchio ci ha messo? Sono rubate, sono mondezza, Io sono un favore, io abbiamo il coso, il camion, le pescherie, e se vuoi mi fanno altro favore. Ma io te lo denuncio, io ringrazio, li piccimo pubblico sul giornale, e la ora non potrò che dire la mondezza. Mi aspettavo che ti apra la casa, se hai buttato un certo. Ma su, la casa potrebbe anche aprirla, ma anche la mamma non sono proprio col cane che c'è. Ma ti credo, no? La prima cosa che hai fatto è entrare fuori. Ma neanche molto direi bistecche se le mangia. Per quello ho fatto un quadro e non si dice subito. Ecco perché non ci servono mai i rumeni di chi a primo piano. Ah, non abbiamo fatto ricavi meglio di quello. Doberman è così, gli danno un po' cuore, gli domani ne gripa. Se proprio vogliono fare roba, se aprono la pistola, se non spara. E tranquillo, tranquillo, si mette a bagliare il cane, quando si... Lo sai che Scooby è fatto così, parte dalla camera da letto, eh. Figurati che a me mi sente, quando apre la porta di su, poi parte dalla cameretta di mamma, e mi aspetta nella porta di casa, in casa di mamma, figurati tu. Poi si vede, tu muovi il portone, cioè anche le scatole le riconosce, tutto. Non è... Sto dicendo, questo male viene a fare come dici tu, ma molto molto male. Scusate un attimo. Bene, ragazzi, sono in casa di alle mani. Vediamo un poco, aspetta un secondo. Ti attacca. Sono negativo. Vado a vedere adesso. Sei tutto cupo. Cupo? Come ti vai? Cupo è come se fossi fuori frequente. Una, una. Tu vale, come uno scuro. Male, male. Una, una. Adesso meglio. Provo, provo, provo. Ecco. Mi si vede come fare un nuovo vivo. Adesso andiamo a vedere, io sono giusto, sì. Esatto, sono giusto qua. Col clarito è arrivato giusto. L'aria è strana. Sempre stato, sempre. Ma no, sei stato, diminuisci il latte di quel presidente, diminuisci parecchio. Vai a 10-12 watt, non di più. Allora devo fare domani, va. Perché qua da me questo qua sono non fare. Domani, lo puoi fare anche adesso. C'è il film, cioè, ti devo bere, lo diminuisci e sei a posto. Allora ci batte, tondi tondi, e esci bene. Cosa fa con lo vuoi, devo dire, con questo mio è un coso. Il presidente è troppo più fatto, quindi fa così. Avanti già. Dai, vado avanti per salutarvi. Mi ha fatto piacere ascoltarvi, dai. Mi alzo 5 minuti che vado a fumare una sigaretta e poi vado a vedere un po' il televisore, dai. Buona serata, buona continuazione, ci sentiamo. Diciamo anche a Claudio e agli altri amici che sono in ascolto, quello ti parla. Ciao Gianni, ciao. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo, stammi bene con tutto, con quello ti... Alle prossime. Ciao, ciao a tutti, ciao anche Claudio, però... Non so proprio dove è entrato, ma... Ciao Gianni. Ti ricordavo che fosse l'avevo toccato. Ma adesso va meglio, voi. Adesso mi ricordavo che l'avevo toccato, è vero. E tu adesso esci bene. No, vabbè, ma adesso sono con la travaglia ancora. Non sta a farlo adesso già. Ma... Allì, devo farlo domani, dai. Per rompere scatola adesso, aprire lì. Poi nuovamente levare dalla stampa. Deve battere il watt, massimo 12-15 watt, non di più, se li sollevi di più, sei fregato, è cessato. Quello è il presidente Lincoln. Oh, il Jackson, eh. Il Jackson, vabbè, è uguale sono me. Poi finale è nato anche tre. Quindi diminuisce a 15 watt e si è a posto tutti i dì. Non mi ricordo cosa aveva, se c'era scritto watt di dentro, boh. C'è scritto PWR nel CRIM, diminuisci quello e sei a posto. Sono anch'io del presidente Jackson. Italia. Ok. Aspetta un secondo. Come va con questo qua? Questo va bene. Oh, hola, ok. Sì, va bene, ma non è che c'è visto granché. La verità, eh. Io mi ascolto sempre con le cuffie. Hola, hola. Allora. Attimino, abbassiamo il volume delle cuffie. Ok, questo invece è diverso, è lì. Ma sta lì due. Hola, hola. Gianluca. Oh, ciao Giuseppe, ciao. E beh. Qua stiamo chiacchierando. È entrato, sei a casa? Sì, sì. C'era Alessio, c'era Gianni, è andato via. È andato via Gianni, chi c'era? Gianni doppio ru. E io. Che bella. Pomponia. Io ci sono, fantastico. Poi, mezzo maniaco, vabbè. Con questo com'è invece? Migliore? Che faccio io di Giuseppe? Eh? Prega lei, Tottone. Hai chiamato te, è il mio voto o peggiore sono tutta cosa? Ma penso che mi risendi pure lì, perché prima non c'era Giuseppe che stava usando l'altro radio. Così va bene, da me almeno va bene, è chiaro. Va bene, questa qua è un'altra radio, però guarda come mi ascolti, 1, 2, 3, prova, posso mettere, però innesca nelle cuffie, mi fa un po' di rientro nelle cuffie, come mai? Oh, hola, hola. Vabbè, anche così si può lasciare, dai. Va bene così. Avanti Giuseppe. Ehi, già va bene così, Gianlu. Vabbè, ottima per la truppa. Ehi, aspetta, guarda, proviamo un altro buco. Ehi, televisione. Cibui. Cicucciu, cicucciu. Non è che si sta preparando la televisione. No, stavo cenando. Ah, ecco. Oggi c'è avuto minestrone, poi fustole, capocollo, che tutto. No. Stanotte ho cenato leggero. Mi sono fatto una bella insalata con pomodori e pomodori. Wuster. E cipolle. Allora sei fortunato perché ho mangiato un pollo senza sale. Io con un po' non c'è. Quando mi sono accorto, mi ho detto, ma come mi ha messo il sale? Poi sono dimenticato, mi ha detto. Ehi, il pollo ti sto dicendo come lo spedale uguale. Un sapore schifoso, non hai idea. Dolce. Allora appena ci ho messo il sale, ci ho messo tutto quello che c'era da mettere. Ti giuro, la prossima volta lo faccio io il pollo. Meglio salato, cazzo, che essere in quelle condizioni. Vabbè, non sei contento, ma l'ho mangiato, hai cenato senza sale. Però questo è un cazzo, non senza sale, senza niente, senza sapori, nulla. Il pollo qua tutto si è matta, senza sale, senza sale, senza aromi, nulla. Gianluca, se sei tu non stai uscendo, eh. Sei lì, Popo. Dimmi, sono qua, sono qua, ma non ho chiesto 4 chili di coso di Ustin. Solo avrei mangiato quel porticino, se me l'ha fatta apposta, certo. Non ci dante. E poi, a me, dopo, a questo, 5 minuti fa mi sono bella mangiato una bella fetta di melone. Magna, santo, l'ha fatto. Ehi, tanto, e cosa vuoi fare, Antonio? Non vado, vuoi dire, cosa devi fare? Io mai ti porto io da quello lì, ti facevo fare ciucuccio. Ehi. E poi di tutto che fai scendere, anche il pisello. Piselli con carote. Alessio. E chi è? Ehi, guarda un attimino, sto provando un'altra radio, come il segnale? Adesso già cambia, è diverso la cosa. Come? Adesso c'è bene come si deve. E come il segnale? Sto usando un'altra radio o antenna diretta però? Senza accordatore? 9:15:25. 9:15, perfetto, dai, sì. Ok, dai. Stavo facendo tre radio con tre microfoni diversi. Però con la stessa antenna sto facendo, capito? Capito, cioè va bene. Ok, dai, metto nuovamente quell'altra, che faccio andare un po' l'altra che non la stavo adoperando più. Ok, va bene, va bene. Ma Giuseppe, mi ascolti bene con questa lo stesso? Ehi, c'è una bomba, Gianlu, c'è una bomba. Ehi, prova adesso un attimino, che ho schiacciato una cosa adesso per vedere come va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova, microfono, cambio, compro e vendo. Compro e vendo e scambio. Alessio, un attimino, fa un passaggio per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una cannonata, eh. Perfetto. E io così sono contento. Una cannonata. Prova, 1, 2, 3, prova. Coppia, incolla, coppia e incolla. Ok. Ok, dai, ritorna alla normalità con l'altra. Già va bene, meglio così. Lascia quella, Gianlu. Questa ti piace. Ehi, già mi sto ascoltando io, porca miseria, davvero. È il palmare suo questo qua, eh. Questo è il suo palmalino. Lo so, adesso me. In questi giorni facciamo una piccola modifica a questo barattolino qua che c'è, attacchiamo un altro microfono e voglio vedere come esco. Capito Gianlu? Cappa, ti ho sentito, è che stavo commutando l'antenna un attimino. Ecco, va bene, ecco, questa è un'altra ancora, un'altra radio, un altro microfono a distanza. La 1-2-3 prova, 1-2-3 prova, ecco, così si schiarisce, sono un metro di distanza. Questa è un po' barattolosa, eh. Ok, vabbè, il timbro della, la timbrica di questa radio, di questo microfono, È la meglio l'altra, Gianlu. E l'altra è un'altra cosa ancora, è quello sì. Adesso facciamo un altro passaggio, aspetta, aspetta con queste, devo solo commutare la radio e basta. Gappa. Ancora, prova a vedere, 1-2-3 prova, 1-2-3 prova, cambio. Non ci sei a te. Prova Gianlu. 1-2-3 prova, 1-3 prova. Guardate che c'è variazione di segnale da una e l'altra ancora, perché non mi ricordo adesso come erano le regolazioni qua. Però io volevo sapere volevo sentire un parere di macchi di microfono, di chiarezza di microfono. Ma che così è chiara per me? Perfetto, va bene. Giuseppe, cosa dici? Aumento, per un momento mi fa innesco rientro nelle cuffie. Se no potevo anche aumentare, aspetta che abbasso tutto quanto, ecco. 1, 2, 3, prova. Io lo vedi? Aspetta, il tavolo sta entrando. Ti sto spento. E ti sto spento, 1, 2, 3, prova. Laggiù, aspetta. E ora vai, la Tirrenia che sta partendo già lungo. Porca miseria, dove lasciamo un'altra stanza? Aspetta, porca miseria. Ecco qua. Adesso non dovrebbe fischiare più, vedi un po'? Adesso no, adesso manca, ma un po' cade, sembrava che stava partendo la Tirrenia. Questa più chiara mi sembra? È molto più chiara. Va bene, ok. Va più che bene. Scappa le rogelo. Questa è la meglio, molto più forte. Sì, questa è più chiara anche Alessio. Questo è un altro mic, eh? Guardate il soffista un pochettino per via della... che mi sono avvicinato con le cuffie al microfono. Ecco. Oia, oia. E quindi... siamo qua. Meglio così. Giuseppe. Già, Gianlu, lascia perdere quel discorso. Oh, yeah. Già, no, già non vedi quando ti dati lo stipendio a casa e le conta piano piano, in caso non pagali. Forse non avremmo arrivato a buon fine mese, adesso ti costa 2.000 euro. Allora Giuseppe, quando andiamo 50 euro compro subito quello che manca, spariscono. Cos'è? Non ho capito, Antonio. Allora, guarda te, quando ti danno 50 euro, veloce mi conti, cazzo, e poi ti danno, veloce, sai che sbaglio. No, non fare così a me. Sì, tutto quello che l'ha per peso, dici. Non ti non la campagna lì. Poi di quelle rumene, polacche, aiù, le metti a fare ciucchi e fare abitare il signore. Mi viene poco forse quello che puoi fare. Allora sì, non certo, perché se non ti conosci, fallo delle padottone se questa cosa qua, ma o si proprio per farlo, se non ti conosci nel paese. Perché lo sanno tutti, io lo sai. Io lo so, lo so. E beh, Gianlu. Davvero, tutto a posto, sì. Così. Se va avanti, alto e bassi. Cosa devi fare, Giuseppe? Si lavora, si mangia, si vive. Cosa devi fare? Niente di particolare. Beh, ma cosa stai realizzando, Gianlu? Però... Sì, vabbè, adesso qualche cosa, adesso come comincia più fresco, dopo si vedrà un pochettino, anche in base alle giornate libere che ho. Dopo a novembre devo ripartire sul continente e vediamo un po'. Dopo che parto, dopo che rientro da Modena, organizziamo qualche cosa anche qua. A livello di questa cosa qua del karaoke? No, a livello internazionale, è un concorso internazionale di voci. Un concorso che c'è su anche su internet, e se vai lì, entra su Giovani Artisti, Associazione, c'è il mio nome che ho vinto il sesto concorso, devo aprire il settimo concorso, no? Internazionale, aperto all'Europa. Va bene quella cosa, è finito di fare la guardia giurata. Questo è una cosa di bella amatoriale, nel senso che, cioè, sì, io devo fare quella cosa lì dopo, non è che se tu che vieni uno si biglia. Non è che ci sono case discografiche, capito, è un concorso di una cosa, ricordando il cantante dei Romadi. E partecipano questi ragazzi e ragazze, persone insomma, comprese tra i 18 e 40 anni, non devono superare, capito? E fanno questa festa, e anche su Sky esce, se non mi ricordo il canale, te lo fanno vedere quello lì. Questo però a novembre, adesso vediamo un po', ancora mi devi già mappa cosa. Ancora non ho deciso come farla questa cosa qui, perché lì c'è stato il terremoto e non è che so fissare il loro divertimento, giustamente. Ah, cazzo, non capisco. Avanti, molto pompa. Dimmi, sono qua. Molto vecchie. Dove sei andato a bagnarti il becco? No, scusa, ma sono qua. Vedi cosa bagni il becco? Cosa bagni nel becco? Ho provato quattro gattine in basso, non si è provato stasera. Ma perché proprio tu bambo, cosa vuoi dire, sta niente, cazzo, in maniera male c'era quello, se no avrei vomitato. Poi c'è messo il condimento, ci ho messo. Se non vai a cucinare a metà. Ma ti conveniva, Antonio, mi date una servietta di fai, forse avrei cenato meglio. No, forse mi conveniva scegliere tuo fratello, obiettarmi, se sei però per a piedi, forse era meglio. E beh, ma la voglia non c'è, mi piace, cosa vuoi fare? quindi bisogna arrangiarsi. Se domani sera sei libero farò una scappata. Sì, domani sera, chiamami, proprio devo scendere. Io c'è un posto unico, quindi facciamo la faccia chiesa di chiedere la mattina e non c'è problema. Vabbè, domani mattina faccio uno spinto, come ci sta vedendo, questo è il mio calcolato e ti prendo e scendiamo la nicchia. Vabbè, non c'è problema, tanto riesco a avere roba domani mattina, quindi chiamami già. Ti hanno tolto subito, ancora al telefono. Ciao. Avanti, Gianluca. E io, ok, dai, colgo l'occasione a salutarvi, ragazzi. Ho finito di levarmi due cosettine qua, domani faccio 10 minuti, controllo quella radio, Alessio, ma abbasso quella cavolo di vatte, ma se no fattureggia ed è un casino. D'accordo, dai. Salutoni, buon proseguimento di QSO, se lo state facendo, comunque sia, buona giornata, buonanotte. Ciao, ciao Alessio, ciao, ciao Giuseppe, ciao a tutti i ragazzi stanno ascoltando, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Ciao, Gianluca, ci sentiamo, stanno bene con quelli che vengono tutte le prossime. Ciao Gianluca, ci aggiorniamo noi a Caremo, dai, già. Già ti faccio uno squillo quando sei a Sassari, già ci troviamo, dai. Andiamo un attimo da al circo, ci vediamo una cosa, non ci sono problemi. Vediamo, non mancherà occasione, dai. D'accordo di nuovo, dai, buonanotte ragazzi. Ciao, buonanotte. Alla prossima, ciao. Ciao, buonanotte, buon 144 e un buon trabacco per domani quando ce lo farai. Se lo fai sicuro. Lui, avanti a Tonè. Che mi andava. Che ne so? Mi dice qualcosa, 10:20. Mi sei amico di adesso. Bisogna che ti risveglio presto. Ci sentiamo domani allora. Vado bene con tutto. Buonanotte. Sono domani mattina, almeno ci vediamo. E vedete, voi ci vediamo tutto a te, non c'è problema. Vabbè, non c'è problema, là. Ciao, buonanotte, allora. Salutiamo Simona. Ci sentiamo alle prossime, dai, ciao ciao. Ciao alle prossime, buonanotte, buon tutto.